la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:09:35 in questo martedì 3 ottobre 2017 in diretta. Vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre Oscar Giannino, sia che siate in diretta sia in podcast. Vi dice di che cosa parliamo oggi per stimolarvi o invitarvi a chiamarci all'800240024. Ve la metto giù semplice con una domanda che è relativa al tema che poi approfondiremo con i nostri ospiti oggi. Il tema che approfondiremo è questo: ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato i tre decreti delegati per la riforma del cinema italiano, fortissimamente voluta dal ministro Franceschini, e uno di questi impone degli obblighi ai broadcaster televisivi e non solo televisivi, cioè delle quote di programmazione di cinematografia europea e italiana. Io vi chiedo, secondo voi è giusto, a tutela del patrimonio della cultura italiana, attraverso l'espressione quindi cinematografica, che sia lo Stato a decidere in prima serata e sul totale delle ore di programmazione dei broadcaster delle reti televisive pubbliche e private, la quota minima che deve essere mandata in onda? È lo Stato che deve decidere l'offerta televisiva? Ecco, magari giustamente molti di voi, e con delle ragioni, perché questo provvedimento nasce dopo anni di confronto intorno al fatto che altri paesi europei, la Francia innanzitutto, ha questa grande idea delle sue tutele dell'industria culturale francese anche attraverso le quote, eccetera eccetera. Però la domanda è di carattere generale. Oltretutto la misura avviene in un quadro nel quale proprio con il ministro Franceschini in questi anni le risorse garantite attraverso aiuti indiretti e diretti, quelli indiretti sono il potenziamento del credito d'imposta al cinema italiano, si sono innalzate di molto, cioè nel 2014, quindi all'inizio dell'esperienza del ministro Franceschini, le misure di sostegno nei crediti imposta alla cinematografia italiana hanno montato a 114 milioni, nel 2016 i milioni stanziati erano 227 rispetto a 114 utilizzati nel 2014, 227 milioni, ne hanno utilizzati 162 in crediti fiscali, tutti gli altri sono andati a parte per l'operazione Cinecittà e gli altri sono stati spesi. Quindi stiamo parlando di un incremento molto forte già al cinema italiano attraverso gli aiuti fiscali, ripeto, diretti, coi finanziamenti alla cinematografia che viene dalla commissione presso il Ministero, le opere che vengono indicate come meritevoli del contributo diretto, c'è un grandissimo innalzamento dell'incentivo indiretto. E adesso si interviene anche con dei vincoli che arrivano direttamente ai consumatori attraverso i broadcaster. Ecco, la domanda è questa. Noi, dico io in questo caso non parlo come giornalista, parlo come fellow dell'Istituto Bruno Leoni, ce ne occupiamo da anni. Vedrete che c'è un ospite che ha pubblicato un libro proprio su questo tema. Il libro si intitola Il cinema di Stato, finanziamento pubblico ed economia simbolica del cinema italiano contemporaneo. È uscito per Il Mulino nel 2017. Io ho fortissimi dubbi sul fatto che lo Stato si debba comportare così, però la mia opinione ve la do dopo. Ma intanto che aspettiamo che voi ci chiamate, 800240024 è il numero, ve lo ricordo, 349-238-6666 per le opinioni. Intanto ha scritto su questo argomento ieri sul Corriere della Sera Pierluigi Battista, che ringrazio di essere qui, sia pure per pochi minuti lo strappiamo ai suoi impegni, però pregherei di oltre a salutarlo e ringraziarlo, di dire ai nostri ascoltatori, come l'ha scritto con grande chiarezza, come sempre fa Pierluigi Battista, di dire anche ai nostri ascoltatori che cosa pensa di questo tipo di intervento. Ciao e grazie intanto. Ciao, grazie a voi per avermi ospitato. Io la penso molto male per tante ragioni. Per esempio, io non è che sia, diciamo, in linea di principio sfavorevole, in base a un dogma liberista, qualunque intervento dello Stato nell'ambito della produzione culturale in particolare. Il credit tax ha funzionato e funziona egregiamente, mi sembra una misura giusta. Sui finanziamenti, vabbè, ci sarebbe qualcosa da dire sui criteri, ma insomma anche lì non facciamo troppo. Qui invece è un po' diverso, questa è appunto, come tu avevi detto, l'imposizione di un programma efficace, ma io dubito fortemente, al di là ovviamente del fatto che magari se un film in prima serata su Rai 1 magari fa il 5%, il 5% è comunque alcune centinaia di migliaia rispetto alle poche centinaia che oramai riempiono le sale cinematografiche, quindi comunque stiamo parlando di cifre, però si va al 5%, cioè la gente fugge, scappa, cioè c'è un modo, diciamo, la sovranità del consumatore è una grande forma di democrazia, la si sceglie con i piedi, no? Si sceglie non andando a votare, ma si sceglie di disertare. Esiste quello strumento democratico che si chiama, grandissimo strumento democratico che si chiama telecomando, cui uno scappa da dove non vuole andare, insomma, dove non vuole restare. Dubito fortemente che filmetti che riempiranno, diciamo così, le produzioni potranno poi avere un minimo di riscontro. Adesso non facciamo che uno, chissà cosa vuole, le dimensioni, che cozzalone, ma insomma un minimo di riscontro anche nel favore popolare, del pubblico, di chi va a vedere. Questo sul piano dell'efficacia. Poi esiste un altro problema, cioè vorrei che non si parlasse più male di Donald Trump. Nel senso che se il principio è il protezionismo, perché di questo poi si sta parlando. Di questo, sì. Cioè non è una cosa delle produzioni italiane ed europee, sostanzialmente italiane. Cioè un principio autarchico protezionista. Questo è di privilegiare, allora dice i posti di lavoro, ma noi, ma benissimo, allora i posti di lavoro, e perché i posti di lavoro degli operai del Michigan o di Pennsylvania che hanno votato in massa Trump perché volevano il protezionismo, quello invece ci fa schifo? Cioè se il principio, ma basta dire, il protezionismo, come basta, cioè diciamo, il protezionismo è la politica economica del 2000, bene, degli anni del 2000, dopo la sbornia liberista, come dicono gli antiliberisti di professione, dopo la sbornia liberista, quella è la politica, ma basta prendere in giro Trump, basta, le barriere, i muri, basta, e poi basta prendere in giro Giulio Tremonti, quando diceva che bisognava bloccare le merci cinesi. Lo ve lo ricordate le urla? Perché gli operai delle industrie tessili, così via, che sono stati buttati fuori grazie a una concorrenza molto molto sleale, diciamo, da parte così, non sono degni di essere presi in considerazione così come i lavoratori dello spettacolo, sempre che abbia efficacia. E poi che concetto di cinema è? Questa è una cosa. Ma perché le serie televisive cosa sono? Oramai il cinema sta diventando quella roba lì, in America e in Italia. Cosa sono quelle cose? Cioè la serie Gomorra non sono cinema? Cioè qual è gli sceneggiati televisivi che si fanno, che non so, le vite dei grandi preti, uomini di Stato, cantanti, non sono forme di produzione culturale che hanno anche un grosso favore popolare? Quelle non le vogliamo considerare? Cioè vogliamo considerare il cinema solo il cinema del cineclub? Cioè questa è la cultura, diciamo così, e questo è il punto, no? Io a tutto quello che Pierluigi Battista aggiungo, mi sono dimenticato di dire una cosa prima. Oltre a un meccanismo a scalare che per le quote di programmazione vale appunto per la Rai pubblica, ma per tutti i broadcaster privati entro il 2020, c'è una doppia misura, perché all'obbligo di programmazione c'è un obbligo quantitativo che lo Stato decide di quanti introiti i broadcaster televisivi devono, cioè obbligatoriamente, come minimo, riservare alle produzioni cinematografiche. Cioè nel 2020 la RAI dovrà mettere a disposizione per produzioni cinematografiche il 20% dei propri introiti netti, e di questi un quarto esclusivamente al Made in Italy. E uno può dire, vabbè, la RAI è pubblica, lo Stato è l'azionista, ok. ma il 15% anche per i privati, cioè gli si dice dei vostri introiti, voi, la quota, io il 15% lo decido io a chi lo dai, lo Stato. Certo. È una cosa che io non so. Agli italiani e agli europei, agli italiani, prima agli italiani. Non prendiamo neanche più in giro Salvini, per carità. Prima gli italiani, prima i cineasti italiani. Aggiungendo i cineasti diventa prima gli italiani, no? Sì. Diventa America first, diventa Italia prima, perché noi per un po' non possiamo neanche pronunciarlo in inglese, probabilmente. Dell'autarchia. L'autarchia. Lo diremo nelle mesce. La purezza della lingua di Dante di nelle mescite. Ritorneremo a chiamare internazionale l'Inter. Allora, io devo dire la verità, ringrazio per Luigi Battista, perché usa anche l'ironia. Spero che tutti stiate capendo che è ironico, ecco, nel dire non permettiamoci più di criticare Trump, Salvini, eccetera. Però, ragazzi, quando con l'autarchia si comincia, l'autarchia è simmetrica, capite? Si diffonde come un domino. Quindi non è che la nostra autarchia è giusta e quella degli altri è sbagliata, perché ciascuno giustifica quella degli altri. Questo è il punto fondamentale in materia di libertà commerciale, libertà per chi ha una rete televisiva di decidere dove mette i suoi soldi, che tipo di produzione gli piacciono, libertà di decidere che cosa programma a seconda di che cosa i miei, naturalmente, telespettatori mi indicano di preferire, perché poi, ripeto, non tutti hanno lo stesso profilo di ascolto, cioè, non stiamo parlando di un universo indifferenziato, le reti sono specializzate e così via. Vabbè, intanto Pierluigi Battista lo ringrazio e ci ha detto con chiarezza che cosa pensa. E adesso, secondo ospite, il coautore appunto del libro che vi citavo prima e che torno a segnalarvi nel caso in cui vi interessasse. Titolo: Cinema di Stato, finanziamento pubblico ed economia simbolica nel cinema italiano contemporaneo, Il Mulino 2017, e i curatori del volume erano appunto Marco Cucco e Giacomo Manzoli, che è con noi. Giacomo Manzoli insegna storia del cinema italiano all'Università di Bologna. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie. Cosa pensa di questo decreto? Partiamo dal presupposto che chi ci ascolta non ha letto il libro, non sa come la pensa, quindi bisogna ricapitolarglielo. Certo, diciamo, il libro si occupa prevalentemente del finanziamento pubblico appunto al cinema, ma naturalmente c'è anche una parte dedicata al rapporto fra produzione cinematografica e network televisivi. In definitiva, la RAI è il primo produttore di cinema in Italia, lo era prima di questi decreti e lo rimane a maggior ragione ancora oggi. Su questo c'è un articolo di Massimo Scaglioni e Luca Barra che affronta in maniera sistematica appunto il problema, che è un problema estremamente complesso. Io condivido buona parte delle affermazioni che sono state fatte da lei, da Battista, che sono osservazioni di buon senso. Bisogna però un po' distinguere gli aspetti. E per questo l'abbiamo chiamata, infatti. Però provo a fare due distinzioni, cioè uno, come è stato anche detto, c'è la televisione pubblica e ci sono le televisioni private, no? Evidentemente sono due soggetti molto diversi, anche se poi competono nello stesso mercato televisivo, per cui sono diversi, ma in qualche maniera entrano in relazione fra di loro e sappiamo di tutte le ambiguità. La RAI non è la BBC, non è una cosa che si è tirata fuori. No, la RAI è pubblica quando gli fa comodo la natura pubblica e privata quando invece sostiene che deve avere le stesse mani libere dei privati. Io dico così, è mia opinione. Certo, beh, diciamo che è un modo per sintetizzare la situazione abbastanza atipica che appunto si è creata. Naturalmente le proteste e anche le rivendicazioni dei network privati sono più che comprensibili, proprio per quello che diceva lei anche Battista prima, cioè vogliono essere autonomi di programmare quello che preferiscono programmare. Per la RAI vale un altro discorso, nel senso che vale un discorso che però è più complessivo, non riguarda solo il cinema, di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Ci starebbe dentro, diciamo che mi sarebbe piaciuto, visto che gli hanno rinnovato la concessione alla RAI pubblica senza scrivere ex ante e in base a quello rinnovargli la concessione, senza scrivergliela la convenzione, e se la sta scrivendo la RAI come ha dichiarato questa estate il capo azienda, cosa che a me lascia veramente senza parole, perché tu lo Stato ha una concessione, la rinnova senza scrivere la convenzione, perché nella convenzione ci dovrebbe essere scritto, per esempio, è impegno della RAI come missione di servizio pubblico dedicare tot di risorse a quello che si stabilisce adesso per decreto e tot della programmazione a quello che adesso si stabilisce per decreto. Invece no, gli abbiamo rinnovato la concessione senza scrivere la convenzione. E adesso l'azienda ci dice che se la sta scrivendo lei. Mi perdoni, ma io di fronte a queste cose mi sembra di stare a Pupazzolandia. Ecco. Cioè non è un paese serio quello in cui la concessione di servizio pubblico si dà senza convenzione e poi la scrive l'azienda a cui viene rinnovata la concessione. Però vabbè. Sì, questo diciamo fa parte dei tanti elementi atipici del sistema televisivo italiano sicuramente. Diciamo, per quanto riguarda la RAI in particolare, di nuovo una piccolissima distinzione, ma che è fondamentale, i nuovi decreti intervengono, come lei diceva giustamente, aumentando l'impegno, prevedendo un maggiore impegno da parte della RAI, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda la programmazione, no? E quindi la RAI deve investire di più nel produrre film italiani in base alle quote dei ricavi, eccetera, e deve programmarne di più. Allora, sono due punti distinti, evidentemente collegati. Se noi accettiamo il primo punto, e questo è oggetto di dibattito, diciamo così, se noi accettiamo il primo punto, che rientra nel più ampio discorso sul finanziamento pubblico al cinema italiano, con tutti i problemi che questo comporta, perché dicevo prima, la RAI è il primo produttore pubblico italiano. Spesso si crea un meccanismo per cui il finanziamento parte dalla RAI, arriva al Ministero, poi arriva alle Film Commission, poi arriva al tax credit, quindi al credito d'imposta, moltiplicando i canali di finanziamento di fatto pubblici, anche il finanziamento indiretto sono tasse, per cui è un finanziamento certo. Pubblico, moltiplica i canali di finanziamento e rende la realizzazione di un film una speculazione vantaggiosa, indipendentemente dal fatto che poi il film esca in sala, qualcuno lo vada a vedere, eccetera, eccetera. No, mi fa piacere che questo lei lo abbia spiegato chiarissimamente a chi ci ascolta, perché se lo dico io mi dicono che come sempre sono il liberista matto. No, ma noi, è esattamente questo l'effetto. Noi siamo agnostici, ci tengo a dirlo, abbiamo fatto una bella presentazione proprio anche all'Istituto Bruno Leoni, c'è stato un bel dialogo, ma diciamo il nostro punto di vista è quello scientifico, per cui abbiamo analizzato un sistema i cui dati parlano chiaro, cioè in Italia si produce un numero oggettivamente esorbitante di film, siamo oltre i 200 ufficialmente, quelli veri sono circa 180 e passa, in un mercato che non sarà mai in grado di assorbire questo numero di film. In Francia se ne producono circa la metà che in Italia, però si vendono più del doppio dei biglietti, no? E infatti i film costano, come dire, molto di più, cioè sono prodotti tecnicamente molto migliori, c'è un investimento di un altro tipo. Quindi mi lascio dire che i dati dicono che nei primi 6 mesi delle sale cinematografiche italiane nel 2017 la quota di mercato delle produzioni cinematografiche italiane ha fatto registrare un misero 18%, cioè senza che Cozzalone, ecco dove andiamo. Questo per ricordarci che poi gli italiani scelgono andando a cinema. Sì, chiusa sì, parentesi. È così, è la più bassa dal 1993, se non erro. Quindi insomma, gli esiti di questo sistema sono sotto gli occhi di tutti e diciamo la legge cercava di intervenire anche per questo, non è che si è deciso di fare una nuova legge sull'audiovisivo perché tutti erano soddisfatti della situazione che c'era. Quindi diciamo l'aumento dell'impegno della RAI nell'ambito della produzione prevista dai decreti è qualcosa che va in questa direzione qui ed è fortemente problematico proprio per queste ragioni, cioè c'è la capacità, si riescono a trovare dei meccanismi di trasparenza per fare in modo che questo non accada più, che non ci sia la moltiplicazione dei canali, che ci sia un investimento mirato in cui qualcuno ci mette la faccia, si assume la responsabilità. Questa è la grande domanda su cui la nuova legge viene messa alla prova. Da questo punto di vista, però, invece, l'aumento della programmazione da parte della RAI è un banco di prova interessante, nel senso che questo era uno degli elementi veramente incomprensibili, diciamo così, dell'attuale sistema. Cioè la RAI produce o coproduce un numero altissimo di film, sapendo già che poi non li programmerà mai in televisione, se non alle 3 di notte all'interno appunto di un discorso di quote, al di fuori di qualunque possibilità di essere giudicati dagli spettatori. Perché quello che diceva Battista è verissimo, cioè la televisione è un luogo fortemente democratico, no? Lo è anche il cinema, io decido di non andare a vedere un film, di fare qualcos'altro e gli incassi sono quelli di cui stavamo parlando. Allora, come dire, una RAI che nel momento in cui produce un film è costretta anche a proiettarlo ad un orario decente con il banco di prova dello spettatore che ha il telecomando in mano, e se il film è pessimo cambia canale, crolla l'audience, crollano gli investimenti pubblicitari eccetera eccetera, può essere un elemento paradossalmente per certi aspetti positivo che obbliga la RAI a fare un discorso, come dire, editoriale sulla produzione, sul suo investimento sul cinema italiano, cioè detto in altri termini a fare dei film un po' migliori, giustificando la ragione per cui ha deciso di intervenire nella produzione di quel film, di finanziare quell'altro film. E quando il film è pessimo, non funziona, non trova un pubblico, ci sono dati di ascolto clamorosamente bassi, qualcuno si spera dovrebbe essere chiamato a risponderne. Ecco, questa speranza io apprezzo molto che abbia detto si spera, ecco, perché insomma. Il meccanismo, le posso chiedere di dire ai nostri ascoltatori, come funziona in termini comparati all'interno dell'Unione Europea? Fermiamoci a questo, i maggiori paesi dell'Unione Europea hanno adottato, adottano misure simili a quelle che il ministro Franceschini ha fortemente propugnato e adesso è arrivato il decreto attuativo, oppure no? Al di là della Francia, che è il caso che conosciamo tutti un po' meglio, ecco. Beh, diciamo, la questione si iscrive, per quanto so io e per quanto hanno anche rilevato molti colleghi che hanno partecipato a questo libro, si iscrive in un discorso europeo che si è avviato alla fine degli anni Ottanta addirittura, che è stato salutato appunto, diciamo, di investimento protezionistico tendenzialmente a fondo perduto sul cinema, no? È un discorso che si fa a livello europeo e quindi anche di programmazione di quote televisive, è un discorso che riguarda un po' tutti i paesi europei. Certamente la Francia è il modello su cui è stato ricalcato anche i nuovi decreti, sono stati fatti un po' pensando a questo modello francese. Però qualcosa di analogo c'è in tutti i principali paesi europei, c'è in Germania, c'è in Spagna, c'è anche in Inghilterra, naturalmente, come dire, in un sistema in cui però quello a cui faceva riferimento prima, no? L'autonomia delle emittenti televisive di Stato è molto più forte ed è tendenzialmente molto più forte anche la responsabilità a cui sono chiamate se vengono mal gestite e se non funzionano. Questo è il grande problema invece del sistema italiano, cioè questo intreccio, se vogliamo, tra management televisivo e politica. E politica, perché poi oltretutto con la riforma che ha messo praticamente la azienda nelle mani di un capo azienda nominato solo dal governo, cosa che abbiamo criticato per decenni, la RAI che era un po' di tutti i partiti ed era la commissione parlamentare per il meccanismo di nomina del CDA che aveva un'influenza pluripartitica, qui adesso siamo un capo azienda di governo, una roba che se fosse stata propugnata ai tempi della Prima Repubblica, chiunque l'avesse propugnata non sarebbe passato mai democristiano socialista, invece con Renzi l'abbiamo avuta. E allora io intanto ringrazio Giacomo Manzoli per quanto vi ha detto, quindi avete sentito una spiegazione oggettiva di come vanno le cose nel settore nel nostro paese, le aspettative che Franceschini ha sposato rispetto alla crisi di una offerta ipertrofica, io la chiamo ipertrofica, un'offerta di produzione che non trova il suo mercato e quella italiana nessuno mi convincerà, ma questa è la mia opinione minoritaria, che siccome è arte e però non trova sbocco di mercato, allora bisogna comunque tutelarla con i soldi pubblici, questa è la mia idea effettivamente, però è vero che si scrive in una cornice europea di tutela e protezione, è vero che allora a quel punto però non lamentiamoci del fatto che anche gli altri faranno così a casa loro rispetto alle nostre produzioni. Io preferirei effettivamente non dire ai privati, capisco le televisioni pubbliche, dire ai privati quanto devono spendere, dove e che cosa devono programmare. Per me sono questioni incomprensibili. Intanto adesso andiamo però alla borsa e alla pubblicità e poi torniamo con le vostre telefonate. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta sulla questione appunto del decreto, uno dei tre decreti approvato ieri di attuazione della riforma del cinema, gli interventi del cinema, che aveva già visto con il ministro Franceschini di molto potenziato il tax credit, quindi gli aiuti fiscali alla cinematografia. Abbiamo visto obblighi di programmazione e obblighi di spesa nella produzione per le reti televisive pubbliche e passe e però private, e qui francamente io obietto fortissimamente, sono d'accordo con Pierluigi Battista. Avete capito, io ve lo risottolineo, spero che essendo il maggior produttore cinematografico la RAI, questa roba è fatta per potenziare gli aiuti alla RAI. Ecco, cioè io lo sottolineo 5 volte questo aspetto, perché altrimenti non è molto chiaro, perché la politica si è data molto da fare. È ovvio che piace all'intero settore della cinematografia italiana. Quello che mi sono dimenticato di dire è che alcuni chiedono gli SMS, ma le reti televisive non si sono battute. Sì, i broadcaster privati, le reti televisive private si sono battute fino a poche ore prima del decreto per ottenere quantomeno uno scadenzamento temporale maggiore, quote più basse, però alla fine è andata come vi ho detto, cioè hanno perso, perché il governo su questo aveva una linea ed è proseguita la linea del ministro Franceschini. Allora cominciamo con Michele che ci chiama dalla provincia di La Spezia. Prego Michele. Buongiorno, buongiorno. Giannino. Sì. No, la cosa purtroppo è veramente mostruosa secondo me, nel senso che qui non smettiamo mai di continuare a finanziare sempre con lo stesso circuito con i soldi dello Stato persone che dovrebbero avere la capacità da soli di fare quello che hanno in testa di fare. Cioè, non capisco, giustamente diceva Battista, come mai non dobbiamo dare una mano al tessile o all'industria, come mai? Quindi è il solito modo per finanziare gli amici degli amici, e così avremo una RAI sempre più scadente che non farà mai concorrenza, perché che interesse ha a migliorarsi se i soldi arrivano? La stampa finanziata. Qui tutto è nel nome di che cosa non lo so. In questo caso nel nome della tutela di questa espressione artistica peculiare italiana che è la cinematografia italiana, perché questa è la giustificazione. Povera gente che non ce la fa a fine mese. Ecco. No, non capisco. Che vuole che le dica? Anche secondo me ci sono altre priorità per l'utilizzo dei denari e degli incentivi fiscali pubblici. Però più che tentare di farci ascoltare, noi non possiamo. Però io intanto la ringrazio perché ha dato un'opinione chiara. Claudio, che ci chiama dalla provincia di Treviso, che pensa? Ma io penso, buonasera, penso che continuare a fare regole per ogni cosa è una nostra caratteristica, e non capiamo ancora che non porta a casa nulla in termini di risultati. Quello che un po' mi dà fastidio, se ho capito bene la questione Franceschini cinema, sì. A me dà fastidio che pagando il canone RAI questa cosa mi dà molta noia. Se fosse una TV che non è a pagamento, che ci mettano pure una regola in più, non me ne frega niente, cambio canale. Ma il fatto che io finanzio in qualche modo quell'azienda, questo mi dà fastidio. Lo capisco, anche se però deve capire invece che per chi da privato gestisce reti di broadcasting televisivo, avere lo Stato, perché dice l'azienda è pubblica, la RAI, e l'azionista dice all'azienda mi fai un tot di programmazione di questo tipo e spendi i tuoi soldi in una certa percentuale, come dico io. Non funziona così all'estero, a dire la verità, perché le reti pubbliche sono poi indipendenti nella gestione, entro certi limiti, hanno una carta di impegni, cioè per la BBC è legata nella sua concessione pubblica a una carta molto impegnativa, scaricatevela se non ci credete, si chiama la Royal Charter, Ecco, da noi invece la concessione pubblica, come ho detto prima, è a prescindere da una contrattualizzazione vincolata. In che cosa consiste l'esercizio del servizio pubblico? Gliel'abbiamo, lo Stato, il governo, gliel'ha rinnovata, questo governo, anzi no, il precedente, gliel'ha rinnovata senza riscriverla la convenzione. Capite che è la differenza tra paesi seri, dove c'è una serie di impegni che hanno rispettato, e paesi non seri, dove tutti dicono che è servizio pubblico, ma in cosa consista il capitolato da rispettare per il servizio pubblico non c'è scritto quando gliel'abbiamo rinnovata la concessione. Quindi lo capisco che si arrabbi, per così dire. Sentiamo ancora Piero da Firenze. Piero, prego. Buonasera Giannino. Buonasera. Senta, volevo dire questo a proposito di RAI. Allora, siamo in un sistema di mercato libero oramai, non si capisce perché la RAI non deve essere messa sul mercato libero e perché dobbiamo pagare un canone per vedere degli spettacoli indecenti. Beh, poi che devo dire, dei giornalisti che fanno da tappetino ai politici, le fiction che sono veramente orripilanti, che non si può guardare. Io effettivamente pago il canone per non guardare la RAI, perché veramente è gestita in una maniera oscena. Meglio andare a vedere, che le devo dire, quei programmi che fanno ci fanno vedere il mare, cosa. Ma la RAI è veramente indecente, non capisco perché noi dobbiamo pagare questa RAI che è veramente inguardabile, per far lavorare poi tutti amici degli amici a Torucoli che non valgano nulla e che se non avessero, qualche amico che li introduce non farebbero la fame, andrebbero a lavorare come tanta gente. Piero, siccome loro pretendono che sia servizio pubblico, e non le devo ricordare io, ma lo devo fare, noi paghiamo una tassa di possesso degli apparecchi di ricezione, non il canone della RAI, perché è stata la maniera per fregarci. Io mi limito a dire che vorrei che funzionasse come nel Regno Unito. Nel Regno Unito, se il consumatore cittadino chiede di non essere consumatore di quelle reti BBC che sono sottoposte alla Royal Charter, non tutta la BBC è servizio pubblico, solo alcune reti, si disattiva, come da noi nello scatolino con cui si riceve lo Sky, e lui fa l'opting out. Secondo me un paese civile fa così, non traveste la tassa di possesso degli apparecchi di ricezione l'obbligo di pagare un canone RAI per i tanti che, come Piero, non la vogliono vedere. Ecco, per me dovrebbe funzionare così. E non c'entra niente, come vedete, la difesa dell'evasione, c'entra la difesa di un diritto di poter scegliere e non di subire imposizioni da parte dello Stato. E sì, è una diversa filosofia, effettivamente, ma non c'entra, per favore, con la difesa dell'evasione. Il canone a un'azienda pubblica non è un obbligo di imposta generale, invece noi lo abbiamo trasformato, per renderlo coattivo, in un'imposta generale. Viva il Regno Unito, per quello che mi riguarda. Adesso andiamo alle informazioni sul traffico e poi torniamo però con un aggiornamento su un tema diverso, perché sarà con noi il delegato della Catalogna in Italia, che ieri non ha potuto collegarci con noi, e gli chiederemo che cosa sta avvenendo e che cosa dobbiamo aspettarci. Intanto traffico. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta in questi ultimi minuti. Un aggiornamento, per così dire, approfittando del fatto che si è reso disponibile. Ieri dovevamo collegarci, parlavamo appunto del giorno dopo il referendum e l'intervento della Guardia Civile spagnola contro chi voleva votare in Catalogna, ma non è stato possibile collegarci con lui. Oggi invece è possibile, e lo ringrazio di questo, il delegato della Catalogna in Italia, il dottor Luca Bellizzi. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio e grazie a voi, e ancora scusa per ieri, e purtroppo il susseguirsi degli eventi nelle ultime ore rende l'agenda che si muove da sola. Mi pare più che purtroppo logico e comprensibile, dico purtroppo, ma è così. Allora, immagino che molti di coloro che sono in ascolto abbiano visto ai tre giornali e sentito i giornali radio intanto quello che avviene oggi in concomitanza con lo sciopero generale che è in corso, e avete visto di nuovo nuovo centinaia di migliaia di persone scendere in piazza in tutta la Catalogna per protestare contro le violenze della polizia spagnola domenica. Nel frattempo, ieri nel tardo pomeriggio, sono arrivate altre reazioni da parte dei componenti del governo spagnolo e sono tutte orientate a una linea durissima, perché in occasione del bilaterale italiano-spagnolo De Guindos, il ministro dell'economia, come il ministro degli esteri spagnolo, sono stati durissimi, hanno addirittura negato che ci siano state violenze, hanno detto la Guardia Civile e la polizia spagnola hanno risposto a violenze altrui. Tutti hanno guardato e visto che cosa era avvenuto. Adesso dire che la Guardia Civile ha risposto a violenze altrui mi sembra veramente... Però il tono dei componenti del governo spagnolo è questo. Allora, la domanda che noi dobbiamo fare a Luca Bedizzi è questo. Ieri abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori, come tutti, che c'è una legge già votata dall'Assemblea della Catalogna che dice entro 48 ore dalla comunicazione formale dei risultati del referendum bisogna iniziare a porre in essere tutta una serie di cose. Puigdemont, il capo della Generalitat, ha chiesto una mediazione internazionale. La Spagna dice: l'Unione Europea è con noi, di che mediazione state parlando? Cosa possiamo concretamente aspettarci nelle prossime ore? Beh, la volontà, come diceva esattamente lei, del governo catalano è quella di mantenere ancora una volta aperta la porta di un dialogo. Negli ultimi 7 anni abbiamo cercato di negoziare infinitamente, ben 18 volte l'abbiamo richiesto, un referendum negoziato con lo Stato spagnolo, e la risposta è sempre stata no. Ancora oggi, dopo soprattutto quello che è successo domenica, il popolo catalano si è guadagnato il diritto ad essere ascoltato, e quindi quello che chiediamo è, partendo proprio da domenica in cui un referendum si è celebrato, hanno votato 2.262.000 persone nonostante la violenza messa in atto dalla polizia e dalla Guardia Civile spagnola, siamo disposti a continuare al tavolo di un possibile negoziato che dia una risposta politica a un problema politico. Il governo spagnolo si nega. Io credo che è fondamentale che un'entità internazionale, qualunque essa sia, si parla dell'Unione Europea. In realtà noi non facciamo esclusivamente riferimento all'Unione Europea. Riteniamo che l'Unione Europea dovrebbe almeno patrocinare questo tavolo di negoziazione. Esatto. Non può far finta che non sia successo nulla e guardare un'altra parte. Sono stati violati dei diritti fondamentali. L'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea parla proprio di diritti, di libertà, di democrazia. Quello che è successo domenica è molto grave, ha creato ovviamente una frattura sempre più profonda fra i due territori, fra Catalogna e fra Spagna, ma soprattutto crea un precedente importante all'interno dell'Unione Europea. Critichiamo altri territori fuori dall'Unione Europea per questi atteggiamenti, e quando succedono nel nostro territorio guardiamo da un'altra parte. Quello è il vero punto di svolta. Quello che chiediamo è che l'Unione Europea sia capace di patrocinarlo, non necessariamente di promuoverlo o di esserne protagonista. Leggendo, mi scusi, faccio una domanda ancora più concreta. Sì. Leggendo il País e i quotidiani spagnoli stamattina, al di là dei toni che restano durissimi di chi è contrario a quello che sta avvenendo, difendendo la linea nessuna trattativa di Rajoy e del suo governo, sembra, molti dicono, è possibile che il governo di Madrid aspetti appunto che il Parlamento catalano, una volta comunicati i risultati, avvii il processo che già ha votato come processo da mettere in atto, perché a quel punto il governo Rajoy faccia scattare l'articolo 155 della Costituzione, si sospende l'autonomia e immediatamente parte il deferimento anche ai giudici penali di tutti coloro che lo abbiano votato. Ma è immaginabile una cosa simile, secondo lei? Guardi, sinceramente l'articolo 155 è già applicato de facto. Una settimana fa sono stati arrestati 14 membri del governo catalano. La polizia, la Guardia Civile è entrata negli edifici del governo catalano. È stata commissionata la finanza pubblica catalana. Quello che è successo domenica con questi atti di violenza ne è ancora di più una dimostrazione. Il problema è che lo sta applicando il governo spagnolo senza una votazione parlamentare. Esatto. Perché? Perché sa che il Partito Socialista Obrero Spagnolo, come gli ha riferito Sanchez nei colloqui che hanno avuto, non darà il sostegno in questo senso. Non può ovviamente il governo Rajoy cercare di portare all'estremo radicalizzare il discorso. La scelta politica, perché è stata una responsabilità politica. Quella di inviare la Guardia Civile alle 9:15 del mattino nei collegi elettorali in Catalogna, va proprio in questa direzione, in cercare di radicalizzare la situazione. Quello che abbiamo chiesto come governo è prima di tutto di ritirare quei 10.000 poliziotti, Guardia Civile e Polizia Nazionale, che vengono visti come una provocazione da parte della popolazione catalana. torniamo a togliere pressione, perché se vogliamo davvero stabilire un è meglio evitare benzina dal fuoco. E attenzione, cari ascoltatori, avete capito? È un proseguo del ragionamento già fatto stamattina. Rajoy rischia, non ha questa granitica maggioranza che tutti raccontano, o che molti raccontano. Non è così. Viva la trattativa. Appuntamento domani mattina alle 8:15 con me e Luca Telese a 24 mattino, e pomeriggio domani alle 16 qui.